Melodia per lottare nel vento, melodia che nasce al tempo, melodia nel suo momento, melodia per lottare nel vento, melodia per lottare nel vento, melodia che nasce al tempo, melodia nel suo momento, melodia per lottare nel vento. Tra luci e ombre il tempo scompare, vivi nel glitch del presente. We'll be right back.